Beh, l'ha avuto certamente più volte con le feste dell'Unità. È triste ricordarlo proprio oggi, che quando di fronte alla sua scomparsa, però il fatto che artisti così grandi e anche così inseriti nel mondo, perché Toscani è stato un protagonista dell'immagine culturale del mondo, abbiano trovato accoglienza e contemporaneamente abbiano avuto loro modo di nutrire le feste, credo che non sia senza significato. Per quanto riguarda Bologna, Mauro Filicori promosse una bellissima mostra nel 1993 e noi nel 2007 lo avemmo in un'edizione speciale sui diritti con Monicelli, Edgar Morin, Tullio Azevi, Sergio Zavoli ed altri, Pirella ed altri, quindi è stato un rapporto che si è rinnovato negli anni. Voi appunto anche in un comunicato sottolineate come Toscani sia stato capace di costruire un immaginario. Sì, io ho sempre, come dire, arrivo buon ultimo, ecco, nel giudicare un fotografo così importante, però mi ha sempre colpito la straordinaria semplicità delle immagini che lui creava, che era poi la base della loro forza. No? Anche nel mondo pubblicitario, e tutto riconduceva a un universo di ottimismo dove l'emarginazione poteva essere esclusa e dove la serialità delle differenze, ricordate, no? Le parti del corpo come i vestiti, e diventava immediatamente percepibile come ricchezza, e gli dobbiamo molto, perché adesso sembra che si debba andare in un universo del tutto opposto, di guerre e di fortissimi conflitti e discriminazioni. Infatti proprio in queste ore ovviamente stanno circolando in rete anche immagini, fotografie fatte da Toscani in passato, e colpisce molto ad esempio quella che mette avvicino, quasi abbracciati, un uomo palestinese e un uomo israeliano, che insomma è drammaticamente attuale. Certo, e poi insomma ricordiamo anche i giochi sul colore, no? Così belli e così capaci subito di far capire quanto il razzismo sia assurdo. No? Le sue immagini ci mettevano davanti questa assurdità, affermando invece la bellezza del fatto che ci sono colori, età, giovinezze anche molto diverse, e alla fine venivano fuori questi mosaici coloratissimi che poi servivano anche naturalmente, no? A promuovere Benetton, ma che andavano anche molto in là, insomma. Lui ha messo una grande stagione di pubblicità al servizio di un'umanità riconsiderata e di pace. Mi rendo conto che magari è prematura questa domanda, ma in futuro come Casa dei Pensieri lo ricorderete? Sì, senza dubbio, anche se noi siamo sempre, come dire, no? Prudenti quando ci avviciniamo a personalità particolarmente rilevanti, no? Che vanno anche oltre il nostro ambito, perché chiaramente Toscani appartiene alla cultura italiana. Non solo, però noi senza dubbio lo ricorderemo, ma forse più che un ricordo sarà importante riprendere proprio questa discussione, diciamo così, sulla fotografia e l'immagine anche oggi come potenti soggetti di affermazione di un mondo di idealità e di rispetto. Tra l'altro può sembrare un accostamento un po' azzardato, ma in questi giorni, lo voglio ricordare, a Rovigo, c'è una bella mostra su Cartier-Bresson in modi completamente diversi, però ecco appunto la forza della realtà di questo grandissimo fotografo che ha dedicato la sua vita, no, a cambiare proprio il ruolo della fotografia dopo e contro le guerre, per l'umanità, per considerare l'importanza di ogni persona e di ogni volto. Ecco, mi ha ricordato, ecco, la volontà di mettere i volti e le persone davanti che aveva sempre Toscani, no? Quindi bisogna riprendere questo tipo di discussione e di percorso.